Di polli si sente da lontano il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce. Mentre nella fabbrica di polli di tanto in tanto un grido copre le distanze, Kappa e Drago scoprono l'esistenza dell'Extreme Crossing. C'è uno sport estremo, no? Extreme Crossing è uno sport che qua in fabbrica praticano tutti quelli fuori di testa, Ma è per polli, è uno sport per polli. Sport estremi, sì, sempre. È uno sport estremo per polli. Ma dove lo fanno? Cioè, che roba è? No, ma è molto semplice, Cioè, praticamente si tratta di attraversare la tangenziale nell'ora di punta, no? E poi tornare indietro. Senza rimanere spettasciati, però, E meno male. Sì, Quindi è uno sport rischioso anche. È rischioso di brutto, Anzi. Però non capisco, di quale tangenziale parli? Ma la tangenziale che c'è qua fuori, no? Ma cosa intendi dire? Che qua fuori c'è una tangenziale? Ma certo che c'è la tangenziale, scusate. C'è un milione di macchine al giorno che passano qua fuori e passano una media di 120, questi qui. E qui gli incidenti non si contano, Tamponamenti, macchine in fiamme. Ma qua fuori? Cos'è? Ma non ho capito. Ma sì, è un inferno qua fuori, Calmo. E no, perché poi? E no, è lì che si svolgono i campionati, quelli clandestini di Extreme Crossing. Capito. Campionati clandestini di Extreme Crossing. Chissà che giro di scommesse. Scommesse, prostituzione, anche traffico d'organi. Ma è proprio un bell'ambientino anche, La volete vedere o no, sta tangenziale? Ma come? Ma cosa vuol dire? Seguitemi, no? Venite dietro a me. Di qua, no? Qua, vabbè, ecco, vai piano. Stai attento. Va bene. Fermatevi un attimo. Ok. Ecco, adesso vi coricate, no? Siete sdraiati. Coricati. Sì, ecco. Stai giù, Drago. Ma fermi, però. Allora, lo vedete quel buco lì che c'è nel muro di cinta? Ma che buco? Quello del muro di cinta, Drago. Ma non ci passa nessuno da un buco così, ma Pollo. Ma mica dovete uscire, no? Da lì dovete solo guardare, Drago, questo no. Stai giù. Drago. Sì. Allora, lo vedete o no il buco? Sì. Ecco. Ma qua fuori il mondo va avanti come sempre. Senti che concerto. Però mi chiedo, anche se il buco fosse più grande, chi uscirebbe mai per trovarsi in mezzo a questo inferno? Io ne ho di certo. Kappa, qui ti volevo. No, perché le gare ufficiali di Extreme Crossing si svolgono proprio qui, Qui bisogna fare avanti e indietro e c'è una giuria che controlla chi non si spetascia, Vabbè, ma scusa, ma chi ce la fa senza volare? Volare? E guai a volare. Guai. Tante a terra. Ma vabbè. E sta qui la difficoltà. Questa è la regola dello sport, È come per la marcia. Cioè, la zampa avanzante deve essere tesa. Tesa. Cioè, non piegata al ginocchio, no? Vabbè. Dal momento del primo contatto con il terreno, sì, fino alla posizione verticale. Cosa dici? Ma come parli? Ma è extreme crossing, no? E se non stai attento ti spetacciano, Ma abbiamo capito. Ma lo sbattimento, però, Vabbè, tutto uno sbattimento per te. Poi dopo la gara resta tutto da raschiare. Raschiare? Sì, l'RPS, no? Ma non sapete niente. RPS? Sì. Ma cos'è? Allora, è il raschiamento a poli spettacciati. Sì. Dopo la gara, no? Sì, immagino. Si deve passare a raschiare via tutti i residui dei poli spettacciati, ecco, no? Ecco, bene, sì. E raschiamo bene, no? Con la spatolina e il raschietto. Sì. Poi li portiamo tutti al politore centrale, no? E lì dentro, tutti lì dentro nel pentolone. E da lì poi fanno i dadi, Col raschiamento. Ma guarda che un bel lavoro, Bel lavoro, sì. E guarda che è pagato bene, Solo che adesso i soldi se li beccano tutti i cinesi maledetti, Ma quali cinesi? Ma sì, quei cinesi maledetti. Il Polly è... qualche volta è... che è morto e deve pulire perché... l'altro chicken è... sembra... morto ancora quando non eliminare quella... quella morta. You are the cattle and we are the keepers. La fabbrica di polli. E benvenuti all'appuntamento settimanale con Extreme Crossing, il momento clou di tutta l'attività di scommesse clandestine della fabbrica, non è vero Joe? Puoi dirlo forte, Jim. La gara di oggi vede schierati i tre pettuti che hanno superato la fase eliminatoria a gironi all'italiana con playoff finali. Questi nostri eroi dei nostri tempi, con la tecnica di slalom sopraffina, sono riusciti ad attraversare indenni la tangenziale più trafficata d'Europa. D'Europa, al blocco numero uno, un applauso appena uscito di galera, direttamente dalla Bolivia, El Condor Pasa! Blocco numero 2 da Piazza San Marco, Venezia, il piccione Rondò Veneziano. Al blocco numero 3 da Milano, zona Viale Abruzzi, il pollo in sbattimento. Eh sì, bello sbattimento. Dai pollo, forza che ce la fai. Fermi tutti, signor giudice, io non volevo mica iscrivermi, eh. Io sono della RPS, eh. Cioè, lo ero prima. Prima che i cinesi maledetti. Vabbè, ma comunque poi io non faccio neanche sport. Sono sedentario io, eh. E prendo anche la paroxetina, eh. 3, 2, 1, via! Ma no! Ho 5 adesso! Addio per sempre a Rondò Veneziano. Vabbè, dai, ma con quella parrucca da Casanova non mi sembrava potesse avere tanta speranza. Il pollo invece va bene, guarda. Ai, addio anche a El Condor Pasa. Troppo goffo nei movimenti. Sì, pensavo. E poi si vedeva a occhio nudo che svolazzava, dai. Doveva comunque essere squalificato, quindi tanto vale aspettare. Ehi, Gio, guarda, è davvero incredibile. Il sbattimento ce la sta facendo. Ancora un pochettino. Pollo, dai. Pollo in sbattimento. Pollo in sbattimento. Pollo in sbattimento. E vince Pollo in sbattimento tra gli applausi della numerosa folla accorsa qui al 38esimo chilometro della tangenziale est. Ma Pollo, ma come hai fatto? A casa mia si chiama culo questo. Quale culo? Quale culo? Sono figo, sì. Sono uno sportivo. Come? Ma sì, sono un po' nato per gli sport estremi. Paura. Ma che sport estremi? L'hai detto tu, Pollo, sei sedentario, non fai sport, sei in sbattimento, prendi la paroxetina. Ma che paroxetina? Basta! Adrenalina! Vabbè. Ma lo senti come pompa l'adrenalina? Sì, vabbè, però... No, voglio rifarlo subito, eh! No, ma no! No, voglio rifarlo, extreme! Ma come? Extreme crossing! No, poi anche i bungee jumping, sì, Sentila come pompa! I bungee jumping, snowboarding! Va bene! Extreme però, Snowboarding extreme! Voglio solo extreme! No, ma stai calmo! Pollo! Pollo, Pollo, sei sicuro che stai bene? Sei tutto bianco? No, no, ma no? No, scusa, ma sei più bianco del solito. E hai anche la tachicardia. Ma no, tachicardia. No. Mi fa male la sinistra, no? Ah, sì? Sì, Serginio. Ma come Serginio? Ma quale Serginio? Sì, aspetta. No, sentimi qua un attimo. No, senti qua, senti la zappa. Appunto. No, senti un po' il cuore qua. Esatto, No, allora sto infartando, Che cosa succederà adesso? L'infarto e l'adrenalina hanno gli stessi effetti sull'organismo di un pollo in sbattimento? Per dissipare ogni vostro dubbio, dovrete sintonizzarvi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo cardiochirurgico allestimento de... La fabbrica di polli produce... Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.